Ad alta voce, Ferdinando Bruni legge L'onda dell'incrociatore di Pierantonio Quarantotti Gambini. Poco a poco, Ario e Berto avevano cominciato a lavorare, ognuno sul suo pontone. Era bello lavorare, ci si divertiva con impegno quasi più che nei giochi di un tempo. E poi guadagnavano. Ario, specialmente, riceveva sempre più spesso qualche mancia dai soci, ma non poteva spenderla. La mamma gli aveva regalato un salvadanaio e lo aveva posto sopra una mensola nel camerone, imponendogli di mettervi dentro le monete. Né l'uno né l'altro sentiva la fatica. Unico inconveniente, l'essere divisi. Ma anche a quello c'era rimedio. Perché spesso Berto, che era meno occupato, i canottieri facevano quasi tutto da soli, raggiungeva Ario sul suo pontone e lo aiutava. E c'erano ogni giorno, tanto il mattino che il pomeriggio, quando gli equipaggi e le barche a vela si trovavano fuori, alcune ore di libertà. Correvano in quei momenti a fare il bagno o giravano in caicio per il mandracchio e oltre la lanterna, improvvisando sempre nuove avventure. Fantasticavano spesso del proprio avvenire. Si vedevano a bordo di un grande trealberi o di un transatlantico. Nessuno dei due pensava di rimanere lì, sui pontoni, a continuare la vita dei genitori. Sarebbero stati entrambi marinai. Si sentivano già marinai. Avrebbero navigato, bruciavano dall'ansia di crescere per potersi imbarcare, tutti i mari del mondo. Risaliva a quel tempo l'apparizione di Eneo. Berto, veramente, sosteneva di averlo veduto nel mandracchio già molto prima, durante l'inverno, diceva, del grande gelo. Anzi, quella fumata che si levava in mezzo al mandracchio che pareva la banchisa dal fumaiolo dell'Empedocle era dovuta, diceva, al fuoco acceso nelle macchine da lui che non voleva patire il freddo. Mario non ci credeva. Doveva essere quella un'invenzione di Berto, smanioso di poter dire d'aver scoperto Eneo prima di lui. Di saperlo da Eneo stesso non era il caso. Egli si degnava appena di guardarli e non raccoglieva le loro domande, o rispondeva distratto con un'aria di canzonatura che li faceva arrossire. Ciò che Ario si ricordava era questo. Eneo era comparso sulla canottiera della Virtus, vale a dire sul pontone di Berto, l'anno innanzi, in primavera, e si era allenato alcune settimane. Poi era diventato, di colpo, alle prime regate, campione nazionale junior. Egli si ricordava della prima volta che l'aveva veduto. Si trovava a bordo di un beccaccino e stava annodando la cima al gavitello quando, rialzando il capo, scorse sullo zatterone davanti alla canottiera di Berto un torso enorme e tutto bruno di sole che usciva da un paio di mutandine che si vedevano appena. Era un giovane dal collo largo quasi quanto il capo, che aveva di dietro rotondo a palla. E si muoveva per la canottiera con padronanza, come se fosse sempre stato lì, e con una lentezza solenne, tra pesante e apatica. Ario non poteva fare a meno di osservargli le spalle, che si aprivano con un'ampiezza inverosimile, sopra la vita forte ma stretta, e le braccia tutte groppi di muscoli, che continuamente si scioglievano e riapparivano. «Hai visto l'atleta?» gli domandò più tardi Berto, correndogli incontro con occhi infervorati. «Sì», si affrettò a rispondere, «ma non mi piace. Non è mica tanto forte». «Vorrei che ti facesse vedere se non lo è. Mio padre dice che non ha mai conosciuto un colosso simile». Tacquero. Poi Ario parlò d'altro, ma un tratto si interruppe. «E chi è? Lo sai?» «L'atleta? Non ancora, ma so che si chiama Eneo. Lo ha detto a Lidia». Alcuni giorni dopo, Ario scorse Eneo sull'Empedocle, il rimorchiatore più piccolo e scarcassato. Lo si vedeva dal busto in su, in tuta bisunta di fuochista, fuori dal boccaporto. Incontrati gli occhi di Ario, egli si ritrasse. Col fiato mozzo, Ario sentì il rossore che gli saliva alle guance. Si vergognava per Eneo. lo aveva creduto un signore o uno sportivo di professione. Eneo cominciò a venire ad allenarsi ogni giorno, ma a ore sempre diverse, quando era libero. Berto, sin dai primi giorni, divenne il suo servo. In attesa che gli apparisse, gli preparava lo skiff, ungeva il carrello, lucidava le scalmiere e persino, strofinandole con uno straccio umido, le pale bianche e azzurre dei remi. Poi, quando Eneo rientrava dall'allenamento, gli correva incontro con un accappatoio che doveva appartenere a qualche altro socio e gli toglieva subito ogni pensiero, posando assieme a Lidia lo skiff sui cavalletti, rovesciandolo per liberarlo dall'acqua raccoltasi nella sentina, spruzzandolo col getto della manica e infine sciacquandolo con la spugna e asciugandolo con gli stracci sino a farlo lucido come un violino. Eneo, frattanto, toltosi l'accappatoio, si stendeva al sole. Più tardi si rialzava, sbadigliava rumorosamente sollevandosi sulla punta dei piedi e stirando le braccia e senza rivolgere uno sguardo a Berto e a Lidia che continuavano a prodigarsi intorno al suo skiff, andava a fare la doccia. Perduta la compagnia di Berto, Ario cominciò ad andare coi ragazzini della caserma. Facevano il bagno assieme e Ario li portava sempre più spesso in barca. Con loro non c'era molto gusto, perché erano paurosi e non si intendevano di nulla. Sapevano soltanto pescare, immobili, per ore. Tuttavia li vedeva sempre più volentieri, anche perché pendevano dal suo labbro ed erano pronti a obbedire. Un pomeriggio, inaspettatamente, durante un'assenza di Berto, che era andato a portare qualcosa a suo cugino in arsenale, egli fece amicizia con Eneo. Stava seduto sulla zattera della Virtus, dondolando i piedi scalzi nell'acqua, quando qualcuno venne a sedersi poco distante. Era lui, Eneo. Sentì di colpo, quasi prima di riconoscerlo, il cuore in gola. Tacque sinché, diradatisi i battiti del cuore, ebbe ripreso fiato. Poi, ergendo il collo e gonfiando il torace come per raccogliere forza, si voltò verso Eneo e... «Buongiorno!» arrischiò con voce che voleva suonare sicura e gli uscì invece rauca. Fu come se l'atleta non avesse udito. Trascorse qualche attimo e Ario, per l'ansia e la vergogna, aveva di nuovo il cuore in gola e le guance accese. Infine Eneo si volse dalla sua parte, lento, con una torsione di tutto il busto. Mentre lo fissava con gli occhi piccoli e forti, la sua fronte si accigliò un istante, poi si schiarì. «Ah, sei tu!» esclamò. «Ciao!» Ario sentì in petto una gioia squillante. Dunque Eneo si ricordava di averlo veduto. Lo riconosceva. Era come se fossero già amici, sebbene non avessero mai parlato assieme. Ma dov'era Berto? Perché tardava a rientrare? E Lidia dove si era cacciata? Li avrebbe voluti lì, che vedessero com'era intimo con Eneo. Dopo quel primo approccio, entrambi tacquero. Eneo, come sempre, aveva quell'aria apatica, lenta. Ario seguiva il suo sguardo, ma non riusciva a capir bene che cosa guardasse. Passarono alcuni minuti e s'udiva soltanto uno sciabordio, l'acqua che Ario faceva spumeggiare coi piedi. Poi anche quel rumore finì. A un tratto, senza sapere lui stesso come, Ario parlò. «Mio padre, disse, è lontano, è in America!» Eneo si voltò. Sembrò per la prima volta che avesse quasi un sussulto. «In America? Nel nord?» lo scrutò. Poi alzò gli occhi in aria. «Quello sì che è un paese!» Ario si animò. «Prima era San Francisco, ma da qualche tempo si trova a Nuova York!» Non poté trattenersi dall'esclamare. Era acceso e gli occhi gli sfavillavano mentre scrutava Eneo in viso. «Ci scrive, da Nuova York!» ripeté. Eneo alzò la spalla come in segno di disprezzo. Ario restò col fiato sospeso e gli parve di soffocare dall'onta. Si sentì il capo scottante e le orecchie in fiamme. «Che vuoi che sia?» diceva Eneo, guardandolo dall'alto col sopracciglio corrugato. «Io ho 3 fratelli in America, tutti a New York!» Disse così. «New York!» Ario tacque, pentito, e vicino a sentire un groppo in gola. Fu contento in quell'istante che Berto e Lidia non fossero lì. Eneo adesso pareva soprapensiero. Taceva, e i suoi occhi, ancor più piccoli tra le palpebre che egli in quel momento strizzava, guardavano in mezzo al mandracchio, fissi. A un certo punto si riscosse e fece uno schiocco con la lingua. «Quello sì che è un paese!» esclamò. «Lì uno sportivo, se non è già un signore, lo diventa!» Tacque qualche istante, poi soggiunse. «Lì la vita è facile. Uno come me è subito famoso, e quando è famoso è anche milionario!» Ario era felice, di nuovo. Guardava Eneo con gli occhi fervidi e si tratteneva a stento. «Ora glielo dico», pensava scrutandogli ogni movimento del viso. «Il mio papà», proruppe infine, «è anche lui uno sportivo. È andato in America per le regate di San Francisco». Eneo si volse dalla sua parte con tutto il torace e lo esaminò da capo a piedi come se appena allora si accorgesse di lui. «Quali regate?» domandò finalmente, corrugando le sopracciglia, mentre ad Ario, colto da un sudore, tremava la gola. «Di San Francisco, mai sentita nominare», e tornò a voltarsi dall'altra parte. Ario precipitava. In lui, in quel momento, qualcosa era finito. Fu come uno strappo che lo tolse a un mondo che era stato sino allora il suo. Si sentiva la gola chiusa, e i piedi e le mani gli penzolavano inerti. «Le regate di San Francisco», pensava con amarezza. «Le famose regate». Provava un'impressione come se tutto ciò che aveva udito e compreso sino a quel giorno fosse in qualche modo sbagliato. Non sapeva chi darne la colpa, ed era tuttavia come se qualcuno l'avesse ingannato. Aveva voglia di scappar via, di ritirarsi come da piccolo nel buio dello stanzone degli attrezzi, sopra un cumulo di cavi, e di piangere, solo. Lo coglieva anche, pensando a suo padre, quasi un senso di rimorso e di pena. «Basta», si disse infine cercando di vincersi, «non verrò mai più con Eneo». E lo guardò di sbieco, come per rafforzarsi in quel proposito. Ma ciò che vide gli riuscì talmente inaspettato da fargli cadere dall'animo ogni risentimento. Eneo guardava dall'altro capo del mandracchio verso il fumaiolo dell'Empedocle, alto e grosso, strambamente sproporzionato all'esiguità dello scafo, e aveva la faccia più scura e chiusa che Ario avesse mai vista. A un tratto le sue labbra si mossero e Ario percepì ciò che disse. «Maledetta miseria!» I suoi occhi parvero farsi ancora più piccoli, pure sprizzando dalle palpebre, e vi si distinsero, accese, tante lievi vene. Trascorse qualche minuto e né l'uno né l'altro disse parola. Soltanto quando Eneo si alzò e fece per rientrare nella canottiera, Ario non riuscì a trattenersi dal gridargli dietro. «E l'allenamento?» E subito si pentì. Ma Eneo non si irritò. Proseguì, senza neanche voltarsi. «Oggi niente», rispose. E la sua voce era di nuovo pacata, altera. «Non mi sento in forma». L'indomani, appena alzato, Ario rivide Berto. Fu per raccontargli del suo colloquio con Eneo, ma qualcosa lo trattenne e non gliene parlò neanche più tardi. I giorni seguenti riprese ad andare coi ragazzini della caserma, ma lo faceva ormai con animo diverso. Era come se in poche ore fosse cresciuto di anni. S'era fatto più serio e si sentiva dentro vagamente inappagato. Un mattino Berto lo chiamò dall'alto del terrazzo della Virtus e appena egli fu lì sotto alzò la mano in un gesto di minaccia. Sebbene non capisse, Ario si sentì in orgasmo. «Bada a quello che fai», lo ammonì Berto. «Ti ricordi cos'è toccato l'anno scorso a Lidia dopo il processo? Se continui ad andare coi ragazzini della caserma, ti toccherà anche peggio». Ario sostenne il suo sguardo. «Non ho paura». «Non hai paura?» rise Berto. «Lo vedremo. Ma che vai chiacchierando? Ricordati piuttosto cos'è toccato a Lidia e preparati». Ario divenne di fuoco. Essere spogliato nudo e sputacchiato, calpestato, insudiciato e costretto poi a stendersi sulla lamiera scottante, ora prono e ora supino, e subire chissà cosa ancora. «No, non ho paura!» gridò con tutto il fiato. «Non ho paura, né di te né di alcun altro. Provatevi a toccarmi!» «Ah, è così?» rise di nuovo Berto a sussulti. «Ti vedremo alle prese con Eneo, allora!» «Ti senti di resistere a Eneo? Eh? Te la senti?» Lo fissava con gli occhi fuori dalle orbite. «Macaco!» riprese con aria di compiacimento. «Non fare l'eroe! Sai già che dovrai calare le brache!» «No, non ho paura! Non ho paura!» urlò di nuovo Ario, che s'era fatto pallido. «Non ho paura neanche di Eneo! So che non mi toccherà! Hai capito? Lo conosco e...» Berto non ascoltava più, saltava agitando le braccia. «Non hai paura di Eneo? Non ti fa paura? Lidia, papà, ascoltatelo!» «Che c'è?» si udì in quella e apparve Eneo, sporgendosi dalla zattera d'approdo. Tacquero. Non sapevano che fosse lì. «Oh, tu!» esclamò il campione appena scorse Ario. Questi arrossì violentemente. E nel rispondergli gli sfavillarono gli occhi. Berto guardava ora Eneo, ora lui, senza parole. «Come?» domandò infine. «Vi conoscete?» «Se ci conosciamo», si voltò Eneo, «siamo amici, vecchi amici». Da quel giorno Berto mutò con Ario completamente. «Vuoi che torniamo ad andare assieme?» gli aveva domandato. Tornarono ad andare assieme, in barca e al bagno, e veniva con loro come un tempo anche Lidia. Ma con lei quell'estate non c'era più gusto. Parlava poco e come sdegnosa. Si appiccicava in testa, prima di tuffarsi, un caschetto di gomma e camminava, anche quando non era scalza, con un'andatura delicata, attenta, quasi i ciottoli potessero farle male. Ciò che riusciva più nuovo di tutto ad Ario era il contegno che Berto aveva con lui. Non lo canzonava più. Spesso lo ascoltava, anzi, con attenzione, quasi fosse lui dei due il più grande. E scoperse anche che in certi momenti, credendosi non visto, egli lo osservava serio.